and roll. La tua colazione rock. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ho capito, però dove la faccio, ho capito, non dico. Allora vabbè, allora proviamo. Va bene, la regola di prima. Fai attenzione. Pigli 40 carte. Ta ta ta ta ta ta ta, mischi, metti qua, pa, alzo. Alzo per non imbrogliare. Bravo, esatto, per non imbrogliare, uno dice, ho alzato. Tre carte a te, tre carte a me. Per terra, attenzione, guarda, non mi fa... Per terra ci sta, sette bene. Asso di danaro, otto spade. Tu in mano di notte i bastoni, capito? Sette belle asse di denaro. Bravo, sette belle asse, allora vedi che non ne capite niente. E dici, sì, ho capito. Da zitto, quando sto, se ho otto per terra, non può pigliare sette una otto, ti pigliava forza otto. Bravo, sì, va bene. Ma nemmeno la scopa, non so se... Lo so, è colpa nostra. Arrivederci, maestro, grazie, andiamo. Arrivederci, maestro, però, mamma mia, rogarmi, tu fatti la... Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Oh, guerra dei maiali, War Pigs. Così inizia la seconda ora di diretta di stamane. Di nuovo buona giornata dalla voce dell'Ariele, 8 e 6 minuti primi dall'orologio di Rock FM. Pane, burro e rock and roll, la nostra colazione, come al solito, la radunata dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici al 335 100 77 77. Parto al volo da proprio l'ultimo messaggio che ho ricevuto qualche secondo fa. Silver Metal, che si contenta del reparto film iniziato ieri, quindi questo Non ci resta che piangere, che ci terrà compagnia fino a venerdì. Quest'oggi un gustosissimo Troisi che giocava a carte con Leonardo da Vinci e chiede in un post-scriptum: come posso fare ad aiutare la nostra radio? Ma è semplice, ognuno di voi là fuori ha un'idea buona per tentare di... Per esempio stamattina vedevo, c'era il nostro gruppo d'ascolto tassisti che proponeva di tenere il volume a livello fastidiosamente alto. Siamo d'accordo, assolutamente, Tino, mi sembra un'ottima idea. Abbiamo visto Carlo il tabaccaio, che pur non azzeccando i numeri però ci prova a farceli vincere. Abbiamo nel reparto calendari il nostro edicolante di Campi Bisenzio, Luca, da ieri, Rosi, la nostra amica che ci aiuta con i calendari dei maschietti. Insomma, ognuno di voi sta prendendo un compito diverso. Silver Metal, inventatene uno anche tu e faccelo sapere. Abbiamo il patentato 147 che sta settimana deve ascoltare un'altra radio, eh? Magari più tardi lo contattiamo e vediamo su cosa insiste questa settimana. Un saluto anche al patentato 306, contento che da ieri è iniziata la stagione del riscaldamento e quindi ricompare il gruppo d'ascolto dei bruciatoristi. Un abbraccio anche a voi. Qualcuno propone, vista la mia lamentela di stamane, che sentiamo troppo la mancanza dell'omino che fa jogging, qualcuno via SMS propone di chiamare DJ della concorrenza a fare i maratonetti qua sotto. Intendi chi? Linus di Radio DJ? Sarebbe carino da parte sua. Tanto che di sicuro lo fa jogging di mattina. Cosa gli costa farlo davanti a Rock FM? Ci farebbe piacere. Se qualcuno di voi ha contatti con Radio DJ, chiedeteglielo da parte di Pane, Burro e Rock and Roll. Anzi, o inviategli una mail al programma che farà tra un po', o a Rock FM hanno chiesto se puoi andare a fare jogging davanti a lì in via Vittor Pisani, che loro ci credono un sacco e gli piace. Mi sembra una buona idea. Bravo. Oh, ultimo saluto. La nostra professoressa di riferimento, Carla. Un saluto ai suoi studenti. Questa mattina dice: ho compito in classe, se continuate con questa musica chiuderò un occhio se copiano. Allora lo devi chiudere sicuro. Però potevi darci delle domande in anteprima, no? I got 65 Cadillac, spare tire on the back. I got a church down the post stacks, but I don't have you. I got women to the left of me, store. I got the numbers 444. I got a mojo, and don't you know I'm all dressed up, no place to go. I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. una delle premiate rubriche di questa trasmissione radiofonica, ci tengo sempre a sottolineare, fortemente voluta da Roberto Fricantoni, è quella denominata Le parole ribelli. Anche le parole possono essere rock. Sì, le parole possono essere anche scomode, ma non dobbiamo avere paura di loro. No, noi per forza dobbiamo occuparci di una parola scomoda. Sì, è un dovere, una missione. Ma certo, una missione che fa parte dell'ampliamento del bagaglio culturale. Ecco, sì. Pane, burro e rock and roll si occupa soprattutto di cultura. Non vedo veramente l'ora di scoprire la parola rock di quest'oggi. L'espressione, l'idioma rock di oggi è cunnilingus. Eccala, un latinismo pure. Bene. Che significa, con la lingua, sì, pennellare i contorni della V-O-U-L-V-A, come fanno i pittori senza mani, di cui si ricevono i lavori sotto forma di cartolina nelle vacanze natalizie. Guardi, lo sapevo, avrei voluto saperlo, ma avrei voluto sentirlo dire così. Grazie. È stato un piacere ed un onore. Buon cunnilingus a tutti, amici ed amiche. Under my thumb, Rolling Stones. Pane, burro, rock and roll. 335 100 77 77, il nostro numero di SMS. In tanti anche quest'oggi. Un saluto a Mancino Max, che ci tiene a segnalare E Oscar Wilde era irlandese, non inglese. Questo, secondo lui, uno dei motivi della sua grandezza. Si firma un italiano irlandese inside. Un saluto anche a Bonci, a Gian, l'inconfondibile, l'immancabile, a Kate, vediamo un po', a Filippo, al gruppo d'ascolto commerciali di Campi Bisenzio in viaggio verso Perugia. Buon viaggio, ragazzi. Diffonderò amore musicale in streaming. Questo è il compito, allora, che si dà Silver Metal. Ok, perfetto, va benissimo. Ognuno può fare quello che vuole per diffondere il verbo di Rock FM. Strombazzata, antitraffico per Angelica in coda da mezz'ora. Speriamo di tenerti compagnia bene. Oh, fantastico questo. Oggi compio 18 anni e sto andando a scuola a fare 2 ore di versione di greco. Per fortuna che ci siete voi, Miki. Ora, sul greco, qui in redazione stiamo messi un po' tutti male. Però se vuoi mandarci, un sms dal bagno, come fanno quelli di M2O, visto che lo scoprivamo settimana scorsa, a vedere se qualcun altro può darti una mano, eh. Ripeto, però noi qui a greco siamo messi veramente male. Fabrizio e Alessandra in viaggio verso Napoli vogliono risentirci nei pressi di Firenze. Qual è la frequenza? Aia, 104.5? Mi sembra, immaginati se vi ricordo i numeri delle frequenze di Rock FM. Però mi sembra di sì. Se su quella c'è un'altra radio, non è quella. È rock far ballare la propria figlia di 2 anni al ritmo dei Cinderella? Andrea, papà, gruppo d'ascolto papà, Rocchettari. E la Lori da Pisa dove la mettiamo? Ecco, salutata anche lei al volo, visto? Sì. Basta inviare un messaggio al 335-100-7777. Proseguiamo dolci il mattino di pane, burro e rock and roll con gli Aerosmith, la meravigliosa ballata Dream On. Yeah. aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia. Aerosmith, Dream On. Sono cose che capitano, brani che a volte raccattati dal repertorio classico del rock poi diventano dell'altro. Purtroppo ricevo una mail ad ariel@radiorockfm.com che recita così: un mio collega mi ha appena chiesto perché su Rock FM passa Eminem. Posso ucciderlo? Sì. Firmato Black, gruppo d'ascolto, non sono venuto al compleanno di Rock FM perché avevo la diarrea. Grazie per avercelo fatto sapere. Mario! Passavo di qua, ho visto questa cosa che volava, questa... come si chiama? Una sfera, come la chiamate? La palla! La palla, esatto, senza offesa. Ho visto questa palla che andava in aria. Ho detto, ma chi sarà mai questa... che fa volteggiare questa palla, appunto, per carità, senza nell'aere. Questo è un gioco, l'ha inventato mio padre. Bello, questo l'ha inventato vostro padre. Bello, come... Bisogna esercitarsi, bisogna provare, poi ci si riesce bene, si lancia e si riprende, anche due, tre volte. Anche due, tre volte. La prego, la prego. Cosa? DJ Ariele. Cosa? Ah, non vedo l'ora. Cosa? Lo dico. Dai. Cosa? Per favore, facciamo il test attitudinale. Ma sì, volentieri. Mi sembra il momento. Che se l'è uscita oggi? No, così perché fremo di perché premi. Anch'io voglio rispondere. Oh. Voglio misurare anch'io la mia cultura rock. Bravo, oggi parliamo di Jason J.K. Chi era? No, aspetta, non faccia così. Era, è ancora il cantante dei Jamiroquai, se li ricorda. Ah, sì, quelli con i cornoni in sì, testa, è proprio lui, nel logo. Esatto, nel logo. No, c'è il cappello con i cornoni. Il buon Jason spesso e volentieri viene citato per una sua particolare passione che lo ha portato a collezionare un certo oggetto che commentiamo decisamente fuori dalla comune portata di tutti. Ricordate nello specifico che cosa colleziona il cantante dei Jamiroquai? Tre le opzioni possibili, passiamo alla prima. Vada. Risposta A: il cantante dei Jamiroquai, Jason Kay, colleziona Ferrari. Ma può essere. Passiamo alla B: il cantante in questione colleziona conchiglie giamaicane a forma di cuore. Ne possiede oltre 200 esemplari. Ah, beh, particolare, ma ai rocker si può concedere tutto. Risposta C: colleziona aerei militari della Prima Guerra Mondiale. Ne possiede ben 15 ed in perfetto stato di conservazione. Là fuori ricordate cosa colleziona il cantante dei Jamiroquai? Ferrari, conchiglie giamaicane a forma di cuore o aerei militari? La risposta come al solito ve la diamo dopo, la soluzione a tra poco. Restate con noi.